Dunque, la responsabile di noi ragazzi al campo estivo di tennis quando avevo 15 anni. Il nome? Adesso è famosa, non posso dirtelo. Oh, santo cielo, ok. Ralph, la chiameremo Ralph. Va bene, adesso il secondo nome. Melanie. Mel... lo sapevo. Ho sempre Ma te l'avevo già detto. No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento tra te e me. No, è impossibile. Ok. Melanie è andata a letto con Heather. Sì. Heather è andata a letto con Brooke. È andata a letto con Brooke. Sì. Brooke è andata a letto con Nina. E io sono andata a letto con Nina, visto? Wow, sì. Perciò 4, 1, 2, 3, 4 sono le persone che collegano te a me. Sembra che sia un mondo folle e piccolissimo. Folle sì, ma non piccolissimo. The Chart, trasmissione di connessioni, cicli, bicicli, improbabili coincidenze e straordinarie commissioni. Ogni 15 giorni alle 17.15 al martedì autogestito. Eccoci. Un rigoroso ritardo, no, dai. No, dai, 5 minuti, sono le 17.20. Bentrovate, questo è The Chart. Noi andiamo in onda ogni 15 giorni al martedì autogestito da femministe e lesbiche. Sappiamo che ormai il gioco l'avete imparato. Sì, abbiamo avuto anche dei bei feedback ormai, non dobbiamo spiegare più non niente. Ve lo spieghiamo. Dici, no, dai. Lo spiega la sigla. È vero. Diciamo anche Donna Sonica e Pinco sono in studio, perché noi non ci raccontiamo mai. No, non ci raccontiamo in queste nostre puntatone. Allora, chart numero 3, cominciamo subito? Diamo un po' di riferimenti. Dai. Allora, se volete giocare anche voi sul nostro blog, che è womenchart.wordpress.com, trovate il form per giocare. Il gioco è questo: dovete mandarci 6 canzoni e le connessioni che ci stanno tra un artista e l'altra. Se avete ascoltato la trasmissione sapete in che modo si gioca, se non ve l'ascoltate ci stanno i podcast. No, non scherzo, però se volete capire meglio come funziona ci potete ascoltare adesso in diretta, appunto, o ascoltarvi le puntate scorse con i podcast e giocare anche voi. E una volta al mese, se ci riusciamo e se voi giocate con noi, manderemo in onda la vostra di chart. Intanto esatto. 0649 1750 per intervenire con noi sia durante le chart che durante tutto il pomeriggio del martedì femminista e lesbica autogestito. E poi anche, insomma, un saluto a chi ci segue in streaming un po' da tutta Italia, www.ondarossa.info. esatto. Un bacio e a tutte e tutti. Allora, chart numero 3. Noi l'ultima volta eravamo rimaste a The Amps, appunto il mitico gruppone di Kim Deal, Tanya Donnelly, insomma, quindi era stato l'ultimo pezzo, era Dedicated, che era estratto appunto dall'unico album poi pubblicato da questa bendona che si chiama The Pacer per la 4AD in Europa, che appunto la 4AD è una delle etichette mitiche, tutte, anche se non lo sapete perché magari non siete espertissime, appassionate. Lo dovete sapere, quindi ve lo dovete imparare, ma in più se andate a guardare su qualcuno dei vostri CD che avete a casa, originali, che avete comprato negli anni, soprattutto negli anni 90, perché praticamente tutta la musica rock, alternativa, indie, era prodotta dalla 4AD. E quindi guardate e vedete che sicuramente avrete qualcosa della 4AD. La 4AD in Europa e l'album usciva per la Elektra però in America. E la Elektra, insomma, è il primo punto a cui mi sono ispirata. Insomma, l'Elektra deriva, è una etichetta americana nata negli anni connessione? 50. Hai ragione, devo dire, abbiamo deciso di dire prima dove arriverò. E poi come ci sei arrivata? E cioè K.D. Lang. Sono arrivata a K.D. Lang. Appunto, la connessione è parte da The Amps e poi la Elektra, che è un'etichetta che nasce negli anni 50, che con pochissimi soldi, appunto, due tipi misero su, producendo soprattutto musica classica negli anni 50 e musica folk, e che poi a un certo punto invece negli anni 60 si aprì alla musica rock e alla musica pop. tanto per citare degli artisti, c'erano i Doors prodotti dalla Elektra, che uscivano con l'Elektra, i Stooges per esempio, ma anche Etta James e Joni Mitchell, insomma. E proprio Joni Mitchell è il punto di passaggio che ci avvicina un po' di più a Katie Lang, perché c'è Joni Mitchell, vero nome Roberta Joan Anderson, ricordiamolo perché ogni tanto ce lo scordiamo, è nata in una provincia che si chiama Saskatchewan, che è una provincia del Canada, e che ha la bellezza di 210.000 abitanti, insomma una robetta importante, che pure ha dato i natali a questa meravigliosa artista che tutti amiamo. E la sua provincia di origine del Canada confina a nord con un'altra provincia che io conosco da quando sono piccola, perché ci ho giocato a Risico. Tu non so se giocavi a Risico quando eri piccola, anche se era un gioco di guerra, era diffusissimo tra di noi, e l'Alberta era una delle province più importanti sul tavolone del Risico. Bene, l'Alberta, che è un'altra località amena del Canada piuttosto interessante, ha dato i natali a molte artiste, tra cui la nostra Katie Lang. Katie Lang ha avuto una carriera di successo stratosferica e lunghissima, ha fatto praticamente di tutto. Una delle cose che ha fatto, ha composto la colonna sonora di un bellissimo film che si chiama Even Cowgirls Get the Blues di Gus Van Sant del 1993, con la protagonista Uma Thurman, che ritorna nei nostri discorsi sempre. Lei in qualche modo c'entra sempre. Comunque questo grafico alla fine secondo me troverà tantissime connessioni anche collaterali, perché ci sono una serie di personaggi che tornano e ritornano nella storia delle artiste. Uma Thurman è una di queste, noi ne siamo liete, tra Uma Thurman, Joni Mitchell, sì, ce ne sono molte, insomma. Poi alla fine è un mondo folle, non piccolissimo, però ogni tanto si restringe. Bene, insomma, la colonna sonora di Even Cowgirls Get the Blues, che tutte conoscete, se non l'avete visto andatevelo a cercare, del 93, un cult movie tratto da un altro cult, un romanzo cult degli anni 70, Cowgirls, il nuovo sesso. E sì Show, te la ricordi? Appunto, era a fare l'autostop quando Katie Lang cantava Keep on Moving. Yeah. Comunque questa canzone sa di giubbotti di pelle. Sì, motociclette, quelle strade belle, lunghe, non c'è niente. E tanto autostop. Era, sì, lo diciamo chi era. Katie Lang, Keep on Moving. E tra l'altro lei quindi con questa carriera, a parte lunghissima, è stata una delle prime, delle più importanti anche poi country singer, lei illuminata da Patsy Cline all'università, poi ha iniziato ad avere appunto tutto un repertorio abbastanza country, eccetera. E il cinema saccheggia tanto la musica, diciamo che in qualche modo è anche una delle sue colonne portanti, perché è molto raro che non ci sia una canzone che appunto poi non sia connessa o collegato, ti ricordi un particolare film. Diciamo che è uno scambio alle volte reciproco, alle volte è proprio un saccheggio. E tra le tante canzoni usate appunto, a parte nella colonna sonora di cui abbiamo sentito il pezzo, un'altra sua canzone era a chiusura del film di Almodovar. È vero. Sì, alla fine di Parla con lei ci sta, rieccola lì, ci sta Katie Lang. E in quella colonna sonora, chiaramente dal forte respiro anche ispanico, quantomeno nella lingua, c'era tra le altre cose quel pezzo fantastico Cucuru Cucu Paloma ricantato in una versione da Caetano Veloso meraviglioso, ma c'era anche una regina, che in realtà poi è il suo cognome, quindi c'era esattamente Elis Regina che cantava uno dei pezzi della colonna sonora. E quindi io ho pensato appunto di mettere una sua canzone che a me piace tantissimo. C'è una versione in cui la canta anche Kojo Bimb, ma io vi ho scelto la canzone, cioè la versione in cui lei la canta da sola, che è Aguas de Marco, che tra l'altro ha un testo praticamente quasi a non senso, comunque un never ending di cose, di storie. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa, a ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mar. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. É pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Quindi The Amps, Katie Lang, Alice Regina fino adesso, e arriviamo a Os Mutantes, cioè restiamo nel panorama musicale brasiliano. Io non sono andata questa volta tanto lontano, non l'ho fatta complicata perché mi faceva piacere fare un omaggio a un personaggio di cui si conosce probabilmente poco, anche poco la sua presenza nei primi anni di vita di questa band, insomma straordinariamente conosciuta e anche apprezzata da musicisti e musiciste di altri generi, soprattutto rock, appunto Os Mutantes. E Alice Regina ha interpretato canzoni scritte da altri autori e autrici, tra cui appunto quelle scritte da Rita Lee Jones Carvalho è il suo nome completo, che è appunto conosciuta soltanto come Rita Lee, che è una compositrice, una cantante, diciamo rock, soprattutto perché gli Os Mutantes, soprattutto nei primi anni, nei loro primi album, facevano questa psichedelia interessantissima, molto particolare, poi con qualche pezzo in inglese, ma soprattutto cantato nella loro lingua madre. E quindi è una attivista animalista, è una vegetariana, insomma è una donna che ha venduto tantissimi dischi appunto con la band Os Mutantes, che dal 68 al 72 appunto erano in tre originariamente, lei, Arnaldo Battista e Sergio Diaz, e hanno tirato fuori in quei 4 anni 5 bellissimi album che trovate in rete, quindi se non vi è ancora capitato scaricateli perché sono veramente bellissimi. Nel 2006 gli Os Mutantes hanno chiesto a Rita Lee di ritornare, di riformare la band, come ormai si usa fare da un po' di tempo a questa parte, superati i 55 anni, ma Rita Lee dall'alto della sua forza e delle sue convinzioni ha detto no, scusate, tornare a suonare insieme per pagarci la vecchiaia non mi sembra una cosa molto carina, quindi ha rifiutato. Io vi faccio sentire un pezzo appunto di quel del terzo album degli Os Mutantes, si chiama Bat Macumba. Bat macumba, he he, bat macumba, oh bat, bat macumba. Anche in questo caso il testo non era essenziale, visto che era una macumba, quindi doveva essere ipnotico. Esatto, la doveva tirare. Siete all'ascolto di The Chart, siamo più o meno a metà del nostro viaggio, trip, come direbbero gli inglesi. E vi ricordo che se volete scriverci potete farlo anche attraverso la mail dell'MFLA, mfla@ondarossa.info, magari mettete come oggetto The Chart, ma tanto appunto la posta comunque la guardiamo noi. Oppure potete chiamarci adesso 0649 1750, o potete visitare il nostro blog womenchart.wordpress.com, dove trovate i podcast delle puntate già andate in onda. Non solo i podcast, ci tengo a dire questa cosa, perché trovate tutte le connessioni, e nella misura in cui trovate tutte le connessioni trovate veramente tutti i link a tutta una serie di cose di cui noi abbiamo magari parlato in trasmissioni, video, pezzi di film, locandine, brani dal vivo, insomma tutto quello che erano la mappatura delle connessioni che abbiamo avuto nella, che abbiamo messo in campo nella trasmissione. Quindi c'è tanto, non trovate solo il podcast. No, ci sono anche spunti, nel senso che certo, molti potete anche percorsi, andare avanti pure, esatto, voi. Nel senso, molti dei percorsi che noi abbiamo seguito, poi a volte anche a malincuore, nel senso che spesso capita che ci sono due, tre ramificazioni e uno deve fare una scelta, e quindi insomma. Certo, perché in realtà non c'è mai una sola connessione, anche questo lo dicevamo fuori onda, ci sono tante possibilità, tante scelte, poi appunto noi scegliamo di farne alcune, magari a voi ne vengono in mente altre, quindi sarebbe bello anche giocare in questo modo. E allora cambieremo completamente genere, perché io dagli Os Mutantes ti parlo di Irma Thomas. Irma Thomas era chiamata la regina del soul di New Orleans. Era pari, insomma, nello stesso periodo di Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, non ha avuto lo stesso successo. Ma come ci sono arrivata a Irma Thomas dal Brasile, ricatapultati a New Orleans? Rita Lee, di cui tu parlavi prima, a un certo punto ha fatto un gruppo con Lucina Turnbull. Lei, e questo gruppo si chiamava Tutti Frutti, con no. cui nel 73 girò in Brasile a fare una tournée. E a un certo punto a me è venuto questo sgribizzo di andare a vedere Tutti Frutti, la canzone, insomma, un po' la storia della canzone. Mm. E che ti ho scoperto che l'ha scritta una donna. No! Veramente. Oggi mi sa che le scrittrici, le compositrici sono protagoniste. Sì, l'ha scritta una donna, anche se poi, vabbè, c'è stata tutta una serie di cose per cui per un periodo gli hanno dato i diritti di questa canzone, per un periodo l'avevano tolta. Insomma, si chiama Dorothy Labostri e lei è stata sicuramente è riconosciuta come una delle autrici del pezzo, no? Lei affermava di essere l'unica autrice del pezzo. Ah, pensavo che era partito un... E invece, e tra le altre cose, lei appunto compositrice, eccetera, eccetera, ha scritto diverse canzoni per tante persone, compreso appunto il primo singolo, la prima canzone che incise, appunto Irma Thomas. Questa mi sembra una rivelazione straordinaria. Sono ammirata, veramente. No, perché è meraviglioso questo. È fantastico. Tra l'altro, ritorniamo a quello che dicevamo prima, cioè totalmente sconosciuto il fatto che una canzone di così tanto successo. Io rifatta, di questo sono rimasta. Sia totalmente sconosciuta il fatto. Beh, allora poi tra l'altro questo problema dei diritti era un po' un casino, si vendevano canzoni per pochi spiccioli, insomma, i diritti erano una cosa un po' più aleatoria di quello che è adesso. Forse anche più divertente in un certo senso, no? Magari sì, ecco. Anche se poi pure lì secondo me c'erano incroci di appunto poi di razzismi e cose varie, per cui tantissimi autori, autrici non hanno poi tantissime donne che hanno magari appunto scritto pezzi che veramente penso siano conosciuti e sono rimasti nella storia del rock, e io scopro adesso che Tutti i Frutti, che ho anche messo diverse volte quando mi è capitato di fare delle feste, di mettere musica, l'ha scritta una donna. Sono felicissima in realtà di questa cosa. Quindi vai con Tutti i Frutti. Vai con Tutti i Frutti, no, vai con quindi Dorothy Labrossi, nel mentre aveva appunto scritto il primo pezzo di questa artista che si chiama Irma Thomas, ovvero la regina del soul di New Orleans. E noi ci ascoltiamo Wish Someone Would Care. Sitting home alone, thinking about my past, wondering how I made it and how long it's gonna last. Success has come to lots of them, and failure's always there. Time waits for no one, and I wish. Your tribulation and all of your trials. Smiles, smiles, had a lot of things. The good, the bad, the hurt, all of this goes too. And I wish. E questa abitudine che avevano negli anni 50 di tagliare drasticamente alla fine del pezzo, sì, senza nessuna basta, pietà, no. Proprio. Ok, basta, è finito. Due minuti e andiamo. Abbiamo cantato, abbiamo detto quello che dovevamo dire, un po' di coda. Allora, Irma Thomas, abbiamo ascoltato un Wish Someone Would Care, e io arrivo praticamente più che altro per diciamo una connessione anche in questo caso cinematografica ma anche autoriale. Arriverò a Edith Piaf. E la sola alla canzone francese. Alla canzone francese, sì. Intanto a me diciamo Irma Thomas, Irma, il nome Irma non mi fa. Non posso sentirlo se non, senza pensare a Irma la Dolce, sempre. Shirley MacLaine è una delle mie attrici preferite, quindi insomma quando sento questo nome automaticamente penso a lei e a Irma la Dolce. E Shirley MacLaine, piccola parentesi e piccola descrizione di un percorso che avrei voluto seguire che poi ho lasciato perdere, è anche una protagonista, la protagonista insieme a Audrey Hepburn nel 61 di un famoso film che si chiama Quelle Due, il titolo originale è The Children's Hour, di William Wyler, nel quale Shirley MacLaine e Audrey Hepburn interpretano due, diciamo, direttrici di una scuola per fanciulle, come si usava a dire, che a un certo punto, diciamo, la pièce teatrale si intitolava La Calunnia, praticamente una bambina accusa di avere una relazione tra loro, e quindi insomma poi da qui succede un po' di casino. Poi è vero, non è vero, poi alla fine vero, una non delle è vero, due esatto. È veramente innamorata. La versione una tragedia comunque, ma al solito tra nella filmografia degli episodi lesbici una tragedia, sempre una tragedia finisce, appunto, che era basata sull'omonima pièce teatrale di La Calunnia di Lillian Hellman, quindi un'altra autrice di teatro, donna, di cui non conosciamo nulla, almeno io non conosco nulla praticamente. C'era una versione precedente del film del 1936 che ovviamente per restrizioni diciamo dovute alla cultura e all'impossibilità di parlare di questo argomento nel cinema si ridusse a un triangolo eterosessuale, quindi lei, lui, lui, lei, insomma loro due non si vedevano mai durante la prima trasposizione. Poi nel 61 Wyler riuscì a rimettere diciamo in campo l'idea di fare questo film, e l'omosessualità diciamo non è esplicita, è sempre in qualche modo sottintesa, sì, cioè una sorta di bacio, ma insomma una roba proprio così, anche se in qualche modo, appunto, come dicevi te, il personaggio interpretato da Shirley MacLaine un po' si rivela, cioè comincia a pensare, ma sai che c'è? Che forse questa, ed è una tragedia, questa cosa non è tanto falsa sostanzialmente. Ma mi sa che ci hai preso, ragazzina. Ragazzina. Ma tornando invece a Irma la Dolce, devo dire che poi sono rientrata all'inizio, cioè appunto alla prima ispirazione che mi era venuta, e ho scoperto, cosa che non sapevo, che la colonna sonora del film Irma la Dolce fu composta da una compositrice che rispondeva al nome, perché è morta nel 61, Marguerite Monod, che appunto è stata una pianista, una compositrice francese, è una, diciamo, una compositrice di canzoni e colonne sonore, canzoni famosissime, ce ne sono tantissime veramente che non sapevo fossero state scritte da lei. Moltissime delle sue canzoni sono state interpretate da voci femminili, ma ha scritto anche per il teatro, per i musical, veramente una produzione vastissima, quindi vi invito ad andare a ricercarla, Marguerite Monod con due N. E una delle cose che ha scritto Marguerite è stata, penso, una delle canzoni più famose interpretate da Edith Piaf, e che è appunto Milord, quindi insomma ora ce l'ascoltiamo, Edith Piaf. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais. De la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'amour, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne les. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort, Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da! Non la potevamo interrompere. No. Tra l'altro leggevo che loro sono state la Monod e la Piaf, che appunto poi per molto tempo ha lavorato con lei come paroliere, e la Monod scriveva la musica, hanno collaborato per 25 anni, insomma sono state delle amiche e delle collaboratrici, insomma, quindi è una cosa molto bella anche questa, una bella connessione che hanno creato. Infatti in realtà si scoprono tante figure, diciamo, che fanno parte di quello che poi crea la musica, quindi le autrici, le compositrici, le produttrici, ne abbiamo trovato anche le ingegnere del suono nelle scorse puntate, esatto, che magari appunto poi sono sempre misconosciute o comunque non assurgono agli onori della gloria, come si suol dire. E invece giocando appunto questo gioco di trovare le connessioni tra un artista e l'altra, e di trovarle attraverso tra donne e altre donne, effettivamente vengono fuori anche tanti lavori appunto dove le donne hanno lavorato con altre donne, cosa che viene sempre mistificata comunque, perché poi è sempre il compositore quello che ha scritto la canzone super, e invece appunto abbiamo ascoltato un classico famosissimo nel mondo ed era scritto, ma qualcuno te l'aveva detto che era scritto da una donna? Forse no. Vabbè, ma questi ma sono a The Chart lo diciamo. Ma a The Chart lo diciamo. Io sembra azzardato, ma dopo di Piaf vi farò ascoltare Rita Pavone. Io sono molto curiosa di sapere come sei arrivata. Allora, Edith Piaf ha avuto una vita, molti forse sanno qualche cosa della sua biografia, molto faticosa, molto costellata da tanti successi, ma anche anche tanti problemi, malattie, cose varie, e è morta nel 1963. Il 1963 non è propriamente un anno in cui non è successo niente nel mondo, poi è vero che ogni anno succede qualcosa, però il 63 innanzitutto succede che chiude Alcatraz, la prigione, quella su cui ci hanno fatto centinaia poi di film, letteratura, l'hanno chiusa apposta per poterci poi per poterci fare i film, perché poi ne hanno aperti altri e molto peggiori e ne sappiamo qualcosa ai nostri giorni. Ma non solo, a giugno Valentina Vladimirovna Tereskova è la prima cosmonauta a andare nello spazio, un'altra donna. Questa sì che è una notizia. Nel 63, russa ovviamente. Beh, in quel periodo russa americana, insomma. Esatto. E anche l'anno del famoso discorso di Martin Luther King, e questo lo sappiamo perché 63-2013 ce l'hanno anche un po' ricordata questa data in qualche modo. E che cosa c'era nella hit italiana in classifica nel 1963? Voi non ci crederete, ma c'erano almeno tre canzoni di Rita Pavone. Una di queste era Cuore, poi entro in classifica anche quella che vi metterò, che è il ballo del mattone. Poi ce n'erano almeno tre o quattro, una cosa solo Rita Pavone, che è stranissimo, ma quello era l'anno in cui avevano chiesto a Rita Pavone di sostituire Mina a Studio 1, la grandissima trasmissione del varietà di Rai 1, e quindi anche lei si è presa questa grossa responsabilità, perché comunque non ha la voce di Mina, adesso le vogliamo bene a Rita Pavone, ma sicuramente non ha la voce di Mina. Però quel qualcosa pel di carota, esatto, quel qualcosa, e tra l'altro anche lei ha una carriera comunque lunghissima, è stata tantissime volte invitata anche a suonare in America. C'è una leggenda che gira su una sua, addirittura nominata dai Pink Floyd in una canzone. Poi c'è chi dice che è vero, c'è chi dice che non è vero. Lei continua a sostenere di aver conosciuto David Gilmour e quindi che in realtà quella storia è vera. Comunque sì, non solo, ma Heart è la versione inglese, perché poi allora certo, si usava fare le cover di canzoni americane famose o comunque delle proprie canzoni, di inciderla in varie lingue. Ancora un po' si fa col Sud America, i cantanti italiani lo fanno nella lingua spagnola, però all'epoca era proprio diffusissimo il fatto che anche una canzone italiana dovesse poi essere tradotta e reinterpretata, chiaramente con dei suoni completamente diversi. E Heart, mi ricordo che tipo entrò in classifica nel Regno Unito, insomma, Rita Pavone è entrata in classifica in Inghilterra. Sì, ma è stato anche l'Ed Sullivan Show, che forse qualcuno che insomma ha passione della musica degli anni 60 sa che era uno show, uno di quegli show americani dove sono passati tutti i grandissimi gruppi e cantanti degli anni 60. Come l'avranno chiamata? Rita Pavone. Rita Pavone è il B-side della canzone che era prima in classifica nel 63. Il B-side appunto di Cuore era Il ballo del mattone. Eccola. Siete sempre all'ascolto di The Chart, sono le 18.03 e insomma sì, Rita Pavone. Commentavamo anche fuori onda che a pensarci adesso uno non può pensare che questo in qualche modo fosse un testo molto spiritoso e anche diciamo verso quella libertà dei costumi che si andava insomma a formare negli anni 60, prima di tutte le lotte eccetera, lo sappiamo, no? Insomma, dalla cultura inglese e dalla musica inglese, i Beatles eccetera, anche questo togliersi di dosso questa rigidità. E se ci si pensa, lei nella canzone dice: io ballo con tante persone, poi sì, con te che sei l'amore mio ballo il ballo del mattone, con te che sei il mio preferito ballo appiccicata, però il rock lo ballo con quello, quello lo ballo con quell'altro. In qualche modo, secondo me, negli anni 60 era tipo oh wow. Sì, no effettivamente vista da questo punto è abbastanza diciamo liberatoria, no? Comunque insomma sì, dava anche un'immagine molto, ma poi Rita Pavone in generale, anche le altre cose che ha fatto, no? L'interpretazione di Gian Burrasca, il personaggio che comunque comunque ha sempre proposto, sia nelle canzoni ma anche proprio come immagine. È sempre stato un personaggio abbastanza, ricordiamoci che cantava anche Datemi un martello, cioè nel senso, poi questa chiama sempre ironica, spiritosa, però appunto provava. Poi verso la vecchiaia mi sa che sia un po', perché so che lei tipo si è candidata con la destra, ma vabbè, insomma stiamo parlando di vita recente, non ma di quando... quella a noi non ci interessa. No, infatti. Allora, quindi come molte cantanti, come dicevamo, soprattutto come si usava all'epoca, interpretava canzoni di altri, magari tradotte di altri ed altre, come abbiamo visto, magari tradotte in italiano o incise, come abbiamo detto, come Heart, incise in inglese. E, negli anni 70 ebbe un grande successo un concerto di Rita Pavone all'Olimpiadi Parigi, che era comunque una, diciamo, una scena piuttosto difficile, perché comunque insomma con un pubblico, quello dove cantava abbastanza... di Piaf, tra cui soldi. Bravissima. Qui sopra, quindi torniamo sempre, abbastanza esigente insomma, non come certi posti dove ti applaudono comunque. E lei ebbe un grande successo anche proponendo, tra le altre cose, in quel concerto una versione francese di un pezzo precedentemente interpretato da Marcella Bella, che è un'altra cantante italiana di successo di quegli anni, e cioè Montagne Verdi, tutti lo conosciamo, anche se non ci piace, ma Marcella Bella lo conosciamo tutti. E Marcella Bella appunto è il mio link per arrivare alla prossima artista, che è Mahalia Jackson. Come? Perché anche Marcella Bella a sua volta nelle sue esibizioni ha proposto la versione in italiano di un pezzo famosissimo di Roberta Flack del 1973, che si chiama Killing Me Softly with His Song, cantato e ricantato poi questo dai Fugees, Lorraine Hill, eccetera eccetera. E la versione italiana si chiamava Mi fai morire cantando, bellissimo. No? Una cosa deprimente proprio. E Roberta Flack, che è una musicista straordinaria, jazz, folk, R&B, soul, che proveniva da una famiglia di musicisti, cominciò da prestissimo, da quando era piccola, ad ascoltare e a subire l'influenza di musica afroamericana. E proprio questo è il link, perché una delle sue influenze più profonde, una delle sue ispirazioni più grandi per poi diventare Roberta Flack, fu appunto la figura di Mahalia Jackson. Sicuramente non solo di Roberta Flack, perché appunto è un'artista che ha influenzato, che ha ispirato tantissime altre artiste, però insomma in particolare il link che ci serviva era lei. Mahalia appunto, cantante gospel si potrebbe dire, se dobbiamo trovare una definizione per la sua musica americana, una straordinaria voce contralto, potentissima, molto profonda, è stata considerata, veniva chiamata la regina del gospel appunto, da sia dai suoi insomma contemporanei che negli anni a seguire, ed è stata anche un'attivista per i diritti civili. Appunto tu mi ricordavi prima che lei fu lei a cantare, sì, prima del famoso discorso di Martin Luther King del 63, quello di I Have a Dream, Mahalia Jackson intonò appunto un gospel che appunto, Take My Hand, Precious Lord. Quindi insomma anche in questo, no? Pur senza pensarci, c'era un altro collegamento. Ha registrato nella sua vita circa 30 album nella sua carriera, ha venduto tantissimi singoli, di cui non so se avrà goduto anche i diritti, insomma, perché questa non è sempre una cosa, diciamo, una connessione facile. E io vi faccio ascoltare questo pezzo, che in particolare tra i suoi pezzi è uno dei miei preferiti, ed è uno di quelli secondo me che in qualche modo svela anche un'altra donna, un'altra artista straordinaria influenzata dalla sua voce, perché io quando sento questo pezzo di Mahalia Jackson non faccio che pensare a Diamanda Galas. E quindi of the world. Trouble of the world. Non ci riusciamo a non mettervele tutte per intero queste canzoni, anche una voce meravigliosa, cioè, mamma mia. Malaya Jackson, in realtà il gospel che vi ho detto prima lo intonò in occasione dei funerali di Martin Luther King, mentre prima della pronuncia dello storico discorso cantò un gospel, un classico in realtà, che era I've been bucked and I've been scorned. E questo per dovere di correttezza, non ci vedo bene, mi si incrociano le righe. Che la vecchiaia. Chart siamo precise. Esatto, de chart siamo precise, siamo quasi alla fine. Sono le 18:14, stiamo quasi per chiudere, c'è rimasto l'ultimo pezzo, poi spazio atti e misfatti. Facciamo un veloce riepilogo, così, giusto per dare l'idea di questa cassetta. Non lo so, a me mi dà sempre l'idea della cassetta, la musicassetta, quella col nastro, questo nostro gioco, insomma, di The Chart. E a nella me piace questa immagine. Non lo so, quanto sei vintage. E, insomma, chi abbiamo sentito? Allora, siamo partite da Katie Lang, siamo passate per Alice Regina, poi abbiamo ascoltato gli Os Mutantes, poi Irma Thomas, Edith Piaf, Rita Pavone, Malia Jackson e chiudiamo con Ella Fitzgerald. Ora, basterebbe soltanto la connessione delle due voci meravigliose nel mondo della musica. Sì, ma non te la caverai così facilmente. Però basterebbe veramente. In realtà in quel periodo, soprattutto comunque in America, le commissioni tra insomma l'industria cinematografica e l'industria musicale erano molto frequenti, nonché grandissimi e noti personaggi musicali poi finivano in come protagonisti o coprotagonisti, insomma, di alcuni film. Malaya Jackson si ritrovò niente poco di meno che con Nat King Cole e Cab Calloway e appunto Ella Fitzgerald in un film che si chiamava Imitation of Life. E per questo, ma vi ripeto, bastava solo la voce in realtà per metterla in connessione, Malaya Jackson con Ella Fitzgerald. Un'altra connessione appunto non battuta, che era un'altra molto vicina e che lei è stata la prima a spingere a far, insomma, dare fiducia a Aretha Franklin, quindi potevamo anche ascoltare la grandissima Aretha Franklin, però passiamo dal soul in qualche modo al jazz, facciamo così, al jazz, dal gospel al jazz, restiamo all'interno del panorama della musica degli afroamericani. Ma sai bene ricordare la sorellanza, che è una cosa bella, insomma. Esatto, sì, anche perché poi lei era una grande attivista, l'abbiamo detto, quindi comunque io penso che il suo attivismo, oltre a essere politico, anche in quegli anni era molto di dar forza anche a altre che cantavano, che provavano a fare questo lavoro, che appunto di cui si vedeva il talento, e gli si diceva dai, perché poi anche Aretha Franklin non è che ha avuto appunto poi una carrierina da un giorno. Lei comunque per me è la voce, io quando sento lei mi pacifico proprio l'anima, cioè altro che Xanax dovrebbe dare Ella Fitzgerald, box interi di Ella Fitzgerald. Io vi ricordo che The Chart lo trovate sul blog dell'MFLA, mfla.noblogs.org, sul blog nostro womanchart.wordpress.com, trovate i podcast, tutte le storie che vi raccontiamo. Sono le 18:17, andrà troppo veloce alle volte, le 18:17. Quindi Pink Law e Donna Sonica vi salutano, vi danno appuntamento ai 15 giorni, ci ascoltiamo Dream, A Little Dream of Me, una meraviglia, e ci vediamo tra 2 settimane. Giocate anche voi e mandateci la vostra chat. Scrivete, ascoltate il podcast, ciao. Ciao. Shining bright above you, night breezes tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. On you, but in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise. Oh, yeah. Promise to me. Dimmi nomi. Dunque, la responsabile di noi ragazzi al campo estivo di tennis quando avevo 15 anni. Il nome? Adesso è famosa, non posso dirtelo. Oh, santo cielo, ok. Ralph, la chiameremo Ralph. Va bene, adesso il secondo nome. Melanie. Mel? Ah, lo sapevo. Ho sempre immaginato... Ma te l'avevo già detto! No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento tra te e me. No, è impossibile. Ok. Melanie è andata a letto con Heather. Sì. Heather è andata a letto con Brooke. È andata a letto con Brooke. Sì. Brooke è andata a letto con Nina. E io sono andata a letto con Nina, visto? Wow, sì. Perciò 4, 1, 2, 3, 4 sono le persone che collegano te a me. Sembra che sia un mondo folle e piccolissimo. Folle, sì. Ma non piccolissimo. The Chart, trasmissione di connessioni, cicli, bicicli, improbabili coincidenze e straordinarie commissioni. Ogni 15 giorni alle 17:15 al martedì autogestito.